Il terzo anello, ad alta voce. La montagna incantata di Thomas Mann. Era difficile stimarne l'età. Doveva essere fra i 30 e i 40 anni, che se anche l'aspetto generale era giovanile, i suoi capelli avevano già sulle tempie qualche filo d'argento e più su erano visibilmente diradati. Due insenature calve si stagliavano sul cranio ai due lati del vertice stretto e rado e facevano più alta la fronte. L'abito, con quei calzoni larghi a quadretti di un giallo chiaro e una giacca troppo lunga di lana grossa con due file di bottoni e grandissimi risvolti, era ben lontano da pretese d'eleganza. Anche il colletto, doppio, appariva un po' scabro lungo gli spigoli in seguito alle frequenti lavature. La cravatta nera era logora e i polsini non li aveva affatto. Castorp lo notò perché le maniche gli cascavano flosce sui polsi. Ciononostante intuì che si trovava di fronte a un signore. L'espressione colta dello sconosciuto, il suo atteggiamento libero e persino bello, non consentivano di dubitarne. Quel misto di miseria e di grazia, gli occhi neri e poi i baffi morbidi e arricciati, ricordarono subito a Castorp certi musicanti forestieri che intorno a Natale venivano a suonare nei cortili del suo paese e, guardando in alto con gli occhi vellutati, tendevano il cappello a cencio affinché dalle finestre vi si gettassero le monete da 10 pfennig. Un suonatore d'organetto, pensò. Perciò non si stupì del nome che udì quando Joachim si alzò dalla panca e con un po' d'imbarazzo presentò: «Mio cugino Castorp, il signor Settembrini». Hans Castorp, con in viso ancora le tracce della sua eccessiva allegria, si era pure alzato per salutare, ma l'italiano pregò entrambi gentilmente di non incomodarsi e li forzò a riprendere il loro posto, mentre lui in quella posa simpatica rimaneva in piedi davanti a loro. Sorrise guardando i due cugini, ma soprattutto Castorp, e col suo modo un po' ironico di abbassare e increspare un angolo della bocca sotto i folti baffi, dove con graziosa curva erano piegati all'insù, faceva un curioso effetto. Invitava per così dire alla vigilanza e alla chiarità di pensiero e fece dileguare sull'istante l'ebbrezza di Castorp, che finì col vergognarsi. Settembrini cominciò: «I signori sono di buon umore. Giustamente, giustamente. Una mattinata splendida. Il cielo è azzurro, il sole ridente». E con un leggero e indovinato gesto del braccio alzò al cielo la piccola mano giallognola, dirigendo la sua anche un'occhiata obliqua e serena. «Verrebbe fatto di dimenticare dove siamo». Parlava senza inflessioni straniere. Soltanto dalla precisione della pronuncia si sarebbe potuto, semmai, riconoscere il forestiero. Le sue labbra formavano le parole con una certa voluttà. Lo si ascoltava con piacere. «E il signore ha fatto buon viaggio per venire da noi?» domandò rivolgendosi a Castorp. «È già in possesso del verdetto? Voglio dire, c'è già stata la lugubre cerimonia della prima visita?» A questo punto avrebbe dovuto tacere e aspettare, se teneva alla risposta. Aveva fatto una domanda e Castorp si accingeva a rispondere. Continuò, invece, a chiedere: «È andata abbastanza bene? Dalle sue risate di gusto?» E qui tacque un istante, mentre l'increspatura dell'angolo della bocca si faceva più profonda. «Si possono trarre deduzioni diverse. Quanti mesi le hanno appioppato i nostri Minosse e Radamanto? Mi lasci indovinare. 6. O addirittura 9. Ah, qui non sono spilorci!» Castorp rise stupefatto, cercando in fretta di ricordare chi diavolo fossero Minosse e Radamanto, e rispose: «Ma come dice, no? Lei sbaglia, signor Settembrini!» corresse l'italiano con chiarezza e slancio, facendo un comico inchino. «Signor Settembrini, scusi, dunque lei è in errore. Io non sono affatto malato. Sono soltanto venuto a trovare mio cugino Zimsen per qualche settimana e approfitto dell'occasione per concedermi un po' di riposo». Thank you. volontario, dunque, è salito da noi che siamo caduti in basso e vuol concederci per qualche tempo il piacere della sua compagnia. Bella cosa questa. E qual è il termine che prevede? No, la mia domanda non è gentile, ma ho un grande desiderio di sentire quanto ci si assegna qualora si possa stabilire da sé, senza Radamanto. 3 settimane, rispose Castorp con leggerezza un po' boriosa, poiché notò che era invidiato. Dio mio, 3 settimane! Ha sentito, tenente? Non è quasi un'impertinenza dire «Vengo qua per 3 settimane e poi riparto»? Noi, signor mio, se permette che glielo insegni, non sappiamo calcolare a settimane. La nostra più breve unità di tempo è il mese. Noi si calcola in grande stile. È un privilegio delle ombre. Ne possediamo anche altri, e tutti presso a poco dello stesso tipo. Posso chiedere quale professione esercita nella vita? O forse meglio, a quale si sta preparando? Come vede, non mettiamo briglie alla nostra curiosità. Anche la curiosità la consideriamo uno dei nostri privilegi. Prego, le pare, disse Castorp, e diede le informazioni richieste. Costruttore navale! Meraviglioso! Esclamò Settembrini. Mi creda, io la considero una professione meravigliosa, anche se le mie capacità sono in un altro campo. Il signor Settembrini è letterato, commentò Joachim un po' impacciato. Ha scritto per i giornali tedeschi il necrologio di Carducci. Carducci, sai? E rimase ancora più impacciato, perché suo cugino lo guardò stupito, come per dire, che ne sai tu di Carducci, tanto poco quanto me, suppongo. Esatto, disse l'italiano annuendo. Ebbi l'onore di parlare ai suoi connazionali della vita di questo grande poeta e libero pensatore dopo il trapasso. Io lo conoscevo, posso dirmi suo allievo. A Bologna stavo seduto ai suoi piedi. A lui devo quel tanto di cultura e di serenità che possiedo. Ma parlavamo di lei, un costruttore navale. Lo sa che per me lei ingrandisce a vista d'occhio? Ecco, lei è lì seduto e rappresenta tutto un mondo di lavoro e di genio pratico. Oh, via, signor Settembrini, in verità sono ancora studente e sto facendo i primi passi. Certo, i primi passi sono sempre difficili, anzi difficile è ogni lavoro che sia degno di questo nome, non è vero? Eh sì, corpo del diavolo, esclamò Castorp e gli veniva dal cuore. Settembrini alzò subito le sopracciglia. Lei invoca persino il diavolo per convalidare questo concetto? Satana in carne e ossa? Ma lo sa che il mio grande maestro gli ha scritto un inno? Come, scusi? Domandò Castorp. Al diavolo? Proprio a lui. Al mio paese lo si recita talvolta in occasione di qualche festa. Salute, o Satana, o ribellione, o forza, vindice della ragione. Un inno stupendo. Ma non credo che lei abbia avuto in mente questo diavolo, perché col lavoro questo è in ottimi rapporti. Quello che intendeva lei, che ha orrore del lavoro perché lo teme, è probabilmente l'altro, quello di cui si dice che non si deve porgergli un dito. Tutto ciò faceva uno strano effetto al buon Castorp. Non capì l'italiano e nemmeno il resto gli riuscì gradevole. Aveva un sapore di predicozzo, benché fosse esposto in tono di conversazione leggera e scherzosa. Guardò suo cugino che teneva gli occhi bassi e disse: «Oh, signor Settembrini, lei prende le mie parole troppo alla lettera. Quel diavolo era soltanto un mio modo di dire, glielo assicuro». «Qualcuno deve pure avere spirito», disse Settembrini guardando in aria con malinconia. Ma rianimandosi e rasserenandosi, riprese il filo. «In ogni caso, credo di dedurre giustamente dalle sue parole che ha scelto una professione altrettanto faticosa quanto onorevole. Che vuole? Io sono un umanista, un homo humanus». Non capisco niente di ingegneria, per quanto sia sincero il rispetto che mi ispira, ma posso ben figurarmi che la teoria del suo ramo richiede una mente chiara e acuta è la pratica di un uomo vero, non è così? È certo che è così. Sono pienamente d'accordo con lei, rispose Castorp, facendo uno sforzo istintivo per parlare con una certa eloquenza. Ora però dobbiamo andare a coricarci per la cura, suggerì Joachim accorto. Il letterato aveva accompagnato le sue parole con gesti graziosi. Ora arrotondò quel giuoco delle mani puntando un dito verso Joachim. Il nostro tenente ci ricorda gli obblighi del servizio. Andiamo dunque, facciamo la stessa strada. Dextra quae ditis magni submenia tendit. Oh Virgilio, Virgilio, è insuperato, signori miei. Io credo nel progresso, certamente, ma Virgilio dispone di aggettivi come nessun moderno. E mentre prendevano la via del ritorno, si mise a recitare versi latini con la pronuncia italiana. Ma si interruppe quando una ragazzetta, figlia del borgo probabilmente, e niente affatto bellina, venne loro incontro. Allora atteggiò le labbra un sorriso di donnaiolo e si diede a canterellare. Ai ai ai, trallalla, piccola donzella, vuoi essere la mia bella? Guardate, lo sguardo le scintilla di lubrica favilla, citò. Dio sa cos'era. E mandò un bacio alle spalle impacciate della ragazzina. Un vero fanfarone, pensò Castorp, e tale lo considerò anche quando Settembrini, dopo il suo accesso di galanteria, ricominciò a sparlare. Soprattutto ce l'aveva col consigliere aulico Behrens. Consigliare aulico da capo a piedi. E sapevano i signori che era l'inventore della stagione estiva? Lui, sì, e nessun altro. Onore al merito. Prima in quella valle avevano resistito d'estate soltanto i fedelissimi. Allora il nostro mattacchione aveva intuito con inesorabile perspicacia che quell'inconveniente era soltanto frutto di un pregiudizio. E aveva formulato la dottrina che, almeno per quanto riguardava il suo istituto, la cura estiva era non solo altrettanto raccomandabile, ma persino particolarmente efficace e addirittura indispensabile. Ed era riuscito, disse, a diffondere questo teorema fra la gente, scrivendo articoli popolari sull'argomento e lanciandoli mediante la stampa. Da allora gli affari erano prosperi d'estate come d'inverno. Genio! esclamò Settembrini. Intuizione! E così continuò. Mentre Castor rideva di gusto, bonariamente, a quel diluvio di eloquenti calunnie. «Lei parla un linguaggio così faceto, signor Settembrini», osservò Castor, «così vivace, non so come dire». «Plastico, vero?» suggerì l'italiano sventolandosi con il fazzoletto, benché facesse piuttosto fresco. «Questa deve essere la parola che lei cercava. Ho una maniera plastica di esprimermi, così voleva dire». «Ma fermi!» esclamò. «Che vedo? Laggiù passeggiano i nostri giudici infernali. Che scena!» «Krokoski!» esclamò Settembrini. «Eccolo là, quello che sa tutti i segreti delle nostre signore. Si prega di osservare il sottile simbolismo del suo vestire. Va in nero per indicare che il suo campo di studi è la notte. In testa costui ha un unico pensiero, ed è un pensiero sudicio. Come si spiega, ingegnere, che di lui non abbiamo ancora parlato? Ha avuto occasione di conoscerlo?» Castor rispose di sì. «Embè, comincio a sospettare che anche lui le sia piaciuto». «Non so proprio, signor Settembrini. L'ho incontrato soltanto di sfuggita. E poi non sono molto veloce nei giudizi. Guardo le persone e dico fra me, così dunque sei fatto. E sia». «Questo si chiama essere ottusi», ribatté l'italiano. «Giudichi lei. La natura le ha dato apposta gli occhi e l'intelligenza. Lei ha detto che parlo con malignità. Forse non l'ho fatto senza mire pedagogiche. Noi umanisti abbiamo tutti una vena pedagogica. Il legame storico, signori, fra umanesimo e pedagogia dimostra il loro nesso psicologico». Fin nell'ascensore svolse ancora questo tema e tacque solo quando i due cugini si fermarono al secondo piano. Lui proseguì fino al terzo, dove, come spiegò Joachim, abitava una cameretta sul lato posteriore. «Non ha quattrini, immagino», osservò Castorp, accompagnando Joachim. «La camera di quest'ultimo era identica alla sua». «Infatti non ne ha», confermò Joachim. «O solo quanto basta per pagare il soggiorno quassù. Già suo padre, sai, era un letterato, e credo anche suo nonno». Allora», sospirò Castorp. «Ma è malato seriamente?» «Non è il pericolo, per quanto mi costa, ma è un male ostinato che si ripete. Ce l'ha da anni, e a intervalli è anche partito di qui, ma dopo un poco ha dovuto ritornare». «Povero diavolo, e pare così entusiasta del lavoro. È poi di una loquacità straordinaria, e va continuamente di palo in frasca. Con quella fanciulla è stato un po' insolente, sul momento mi sono sentito a disagio. Ma il discorso che ha fatto dopo intorno alla dignità umana era eccellente, come a una cerimonia solenne». Joachim gli poté rispondere soltanto impacciato e vago. Da un astuccio di marocchino rosso foderato di velluto che era sulla tavola, aveva estratto un piccolo termometro e si era messo in bocca la parte inferiore, riempita di mercurio. Lo teneva sotto la lingua a sinistra, di modo che il tubo di vetro sporgeva obliquo su dalle labbra. Poi si mise in libertà. Si infilò scarpe da casa, una specie di giubba militare, prese un modulo a stampa e una matita, anche un libro, una grammatica russa. Infatti studiava il russo perché, diceva, contava di cavarne un vantaggio per il servizio. E così, equipaggiato, uscì sul balcone e si coricò sulla sedia a sdraio, buttandosi leggermente sui piedi una coperta di cammello. Non era proprio necessaria. Nell'ultimo quarto d'ora lo strato di nubi si era andato assottigliando. Il sole lo squarciò, così estivo, caldo, abbagliante, che Joachim si protesse la testa con un ombrellino di tela candida, fissato al bracciolo con un piccolo dispositivo ingegnoso, spostabile secondo la posizione del sole. Castorp ne lodò l'invenzione. Voleva aspettare il responso della misurazione e intanto osservava le varie mosse. Osservò anche il sacco a pelo che stava in un angolo della loggia. Joachim se ne serviva nelle giornate fredde e coi gomiti sulla ringhiera guardò giù nel giardino e vide la veranda comune popolata di pazienti coricati e intenti a leggere, a scrivere, a conversare. Ma soltanto una parte dell'interno era visibile, circa 5 sedie. «Ma quanto dura codesta faccenda?» domandò Castorp voltandosi. Joachim sollevò 7 dita. «Ormai devono essere passati i 7 minuti». Joachim scosse il capo. Dopo un po' si tolse il termometro dalla bocca e lo esaminò dicendo: «Quando vi si presta attenzione, il tempo passa molto adagio. Questa prova 4 volte al giorno mi piace assai, perché ci si accorge che cosa sia realmente un minuto, o magari 7, mentre non si sa come ammazzare i giorni della settimana». «Tu dici realmente?» «Non puoi dire realmente», obiettò Castorp. Stava seduto con una gamba sulla ringhiera e aveva il bulbo degli occhi segnato da venine rosse. «Il tempo non è mai reale. Se ti sembra lungo, vuol dire che è lungo. Se ti sembra breve, è breve. Ma quanto sia lungo o breve, in realtà, non lo sa nessuno». Non era punto avvezzo a filosofare, eppure sentiva il bisogno di farlo. Joachim era contrario. «Che dici? Ma no, se lo misuriamo. Abbiamo orologi e calendari, e quando passa un mese è passato per me, per te e per tutti». «Sta attento», disse Castorp, e si portò persino l'indice accanto agli occhi cupi. «Quando ti provi la temperatura, un minuto è lungo come sembra a te, vero?» «Un minuto è lungo un minuto. Dura quel tanto che la lancetta dei secondi impiega a compiere un giro». «Ma impiega tempi molto diversi per il nostro sentire». «In effetti, dico, in effetti», ripeté Castorp, premendo l'indice contro il naso così forte da spostarne la punta, «quello è un movimento, un moto nello spazio, no? Un momento, aspetta, noi dunque misuriamo il tempo con lo spazio, però è lo stesso che voler misurare lo spazio col tempo, come fanno coloro che di scienza non si intendono. Da Amburgo a Davos ci sono 20 ore, già con la ferrovia. Ma a piedi? Quant'è? E col pensiero? Nemmeno un secondo».